Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti all'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione. Questa sera torniamo su una storia di ricerca italiana che stiamo seguendo ormai da qualche tempo per via del potenziale particolarmente elevato, diciamo così, in termini di ricadute industriali. Parliamo del lavoro sulle finestre fotovoltaiche portato avanti da Francesco Meinardi e Sergio Brovelli, entrambi docenti del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università Milano Bicocca. Ebbene, circa 3 anni fa i due ricercatori avevano proposto una strada percorribile per realizzare delle lastre trasparenti in grado di intercettare una parte della luce che le attraversa e di ridirigerla sui bordi, dove delle celle fotovoltaiche convenzionali possono convertire questa luce in energia elettrica. Il segreto di queste lastre, che per il resto sono fatte di materiali plastici abbastanza comuni, è nell'aggiunta di piccole quantità di materiali otticamente attivi, delle nanosfere, per così dire, che sono in grado di assorbire e riemettere la luce con delle modalità peculiari, di cui tra l'altro abbiamo parlato più in dettaglio in una puntata di qualche tempo fa. C'erano però ancora dei piccoli problemi da risolvere e ora sembra che siano stati definitivamente risolti anche questi. Buonasera Sergio Brovelli. Buonasera a lei. Allora, senta, l'annuncio lo avete dato niente meno che su Nature Photonics, con un articolo dal titolo, diciamo, un po' complicato, provo a tradurlo, concentratori solari luminescenti basati su quantum dot di silicio, poi va ancora avanti. Ma noi ci fermiamo qui, le chiedo insomma di spiegarci semplicemente dove sta il punto. Ok, il punto è che in questa nuova pubblicazione abbiamo modificato ulteriormente rispetto alle generazioni precedenti la classe di nanoparticelle che utilizziamo come emettitore nei nostri concentratori solari. Negli studi che abbiamo fatto precedentemente, la prima prova di principio fu fatta con dei materiali a base di cadmio che non avevano delle potenzialità reali perché erano tossici e selettivi per l'assorbimento della luce. Cioè, insomma, dimostravano che il sistema funzionava, ma poi non erano effettivamente applicabili. Parliamo sempre di queste nanosfere, no? È su queste che voi lavorate. Corretto, okay. Su queste nanoparticelle in termini forse più precisi. La seconda generazione invece si basava su materiali completamente non tossici a base di sali di rame che avevano tra l'altro la capacità di assorbire su tutto lo spettro del sole, dando quindi delle finestre di colorazione neutra tipo occhiale da sole. E questa è un po' la chiave di volta per poter costruire delle finestre fotovoltaiche senza impatto estetico sull'edificio in cui vengono installate. E anche all'interno, soprattutto perché sfalserebbero tutta la percezione dei colori se non fossero neutre, no? Esattamente. Questi sistemi, seppur ottimi per questa applicazione, possono forse soffrire di una scarsità del materiale di partenza, perché presentano una composizione che si basa anche sull'indio, che è un materiale parzialmente raro sulla Terra e molto utilizzato nei display. Ecco, nonostante questi limiti, in realtà voi avete vinto l'anno scorso lo Special Recognition Award assegnato negli Stati Uniti, uno dei premi più importanti, un premio alle 100 invenzioni più importanti dell'anno. Ecco, però diceva, nonostante questo, c'era la possibilità di migliorare. Veniamo al punto. Ok, sì, questo non era in realtà un limite, ma soltanto una possibile difficoltà per lo sviluppo industriale. Quello che invece abbiamo fatto recentemente è stato sostituire queste particelle con particelle fatte di puro silicio. Il silicio è il materiale più abbondante sulla crosta terrestre, certo. Costa pochissimo e delle migliaia di tonnellate. È atossico. E delle migliaia di tonnellate che se ne producono ogni anno, solo una piccolissima parte è sufficiente per sostenere tutta l'industria, diciamo, dell'elettronica. Certo. Quindi questo è un materiale che non presenterebbe in nessun modo un limite di approvvigionamento delle materie prime. In più, quando vengono prodotte queste particelle in modo ingegnerizzato e intelligente, le loro proprietà ottiche sono ideali per lo sviluppo di concentratori solari luminescenti ad alta efficienza, ovvero assorbono la luce ma non sono capaci di riassorbire la loro luminescenza. Ecco, sì, perché la cosa difficile è evitare che queste particelle poi si mangino la luce una con l'altra, diciamo così. Corretto. Però questo è un aspetto tecnico. Invece, parliamo appunto di efficienza. Quanto sono efficienti queste vetrate fotovoltaiche che immaginate di realizzare? Ora i nostri prototipi hanno un'efficienza che si aggira attorno al 3-3,5%, ma tramite il nostro spin-off universitario che si chiama Glass to Power puntiamo ad ottenere efficienze attorno al 5%, dal 5% in su, circa 50 watt di energia per metro quadro. Per metro quadro. Ricordiamo che non si può salire più di tanto, perché sennò le finestre diventano nere. Devono rimanere delle finestre, essere fondamentalmente trasparenti. Ecco, come verrà integrata questa vostra tecnologia? Dove va a finire questa lastra? Questa lastra viene inserita all'interno di una vetrocamera a triplo vetro, sostituendo il vetro centrale. Perfetto. Questo permette di avere una finestra che ha alto isolamento termico, acustico, al contempo protegge il dispositivo ottico fotovoltaico, certo, dall'ambiente esterno. Parliamo un attimo di tempistiche, perché la startup già da alcuni mesi sta lavorando all'industrializzazione. Quando potremo avere dei prodotti sul mercato? Qual è la vostra previsione a questo punto? Quello che puntiamo di fare ora è ottenere dei prototipi per l'installazione in siti test alfa o addirittura beta in circa un anno. Da lì in poi si partirà con lo sviluppo industriale vero e proprio. Va bene, grazie Sergio Brovelli, e avanti così, mi raccomando. Grazie mille, buona serata. È tutto, a domani.